Sotto il limite del cielo è una serie reportage in 5 puntate con testimonianze, memorie e interviste ad artiste, organizzatori, spettatori e staff del Bethlehem Festival Site Specific, tra Beit Jala, Betlemme e Hebron. Una serie audio in cui il teatro, come luogo di incontro tra identità, memoria e consapevolezza, si declina in uno strumento di ricerca artistica e resistenza in Cisgiordania. Bethlehem Festival Site Specific è il festival di teatro che ha ospitato la performance Footloose della compagnia teatrale Teatro in Gestazione. Il teatro, come strumento di conoscenza e scoperta, diventa spazio di incontro con il popolo palestinese. Questo è l'inizio di una storia, ma per raccontarla è importante testimoniare e farne parte. La città che non c'è. Alle 14:30 andiamo all'Angels Hotel. La maggior parte degli artisti del festival pernotta qui. Con un piccolo pullman partiamo per Hebron. Durante il tragitto, Marina ci racconta lo scenario che attraversiamo. Questo è uno dei passaggi più recenti che stiamo attraversando ora, che ci porterà alla strada 60 e proseguirà verso Hebron. La maggior parte degli insediamenti che vedremo lungo la strada iniziano con la costruzione e l'arrivo di carovane in cima alle montagne. Ogni mese le roulotte aumentano, diventano case e poi un insediamento sempre più grande, che si diffonde giù per la collina. È una delle strategie avviate da Moshe Dayan e Goldstein per controllare i villaggi palestinesi nelle valli. Proseguendo verso destra si arriva a due villaggi, uno chiamato Batir e l'altro Usan. A sinistra c'è una parte del muro di segregazione. Si possono vedere anche le torri militari sulla strada, dalle quali si può controllare tutto ciò che accade vicino al muro e anche su questa strada. Proseguendo sulla nostra sinistra c'è uno dei più grandi insediamenti chiamato Efrata, che si è diffuso fino forse all'inizio di un altro villaggio, il villaggio di Halul. Di solito i coloni dell'insediamento di Efrata scendono fino alle piscine di Salomone e al villaggio di Artas e cercano di attaccare i palestinesi in quell'area. E sostengono anche che queste piscine appartengono a loro e non ai palestinesi, mentre in realtà appartengono al villaggio dai tempi di Re Salomone. A sinistra c'è un altro ingresso a Betlemme. Abbiamo due ingressi, uno da Beit Jala e uno da qui. Come vedete, la maggior parte degli incroci stradali ha torri militari, dove i soldati controllano chi passa e a volte chiudono anche la strada con un cancello, a loro discrezione. La maggior parte delle terre su entrambi i lati appartengono ai cittadini di Betlemme, di Beit Jala e di altri villaggi. Ma ai palestinesi non è permesso costruire su di esse, perché sono considerate area C. A volte, quando cercano di prendersi cura delle fattorie, vengono attaccati dai soldati o dai coloni. Di solito la costruzione di queste strade porta via buona parte dei terreni per gli insediamenti, o si appropriano direttamente di terre che confiscano per l'insediamento. A destra c'è un altro edificio, una nuova strada che porta a un altro insediamento che si chiama Navy Daniel. La maggior parte dei coloni proviene da Brooklyn e da New York, fondamentalisti ed estremisti che vanno in giro con le loro mitragliatrici. Di recente, sulla strada per Nablus, hanno iniziato ad attaccare i villaggi, come nel villaggio di Uara, bruciando più di 100 auto e 45 case, scortati dai soldati israeliani. Hanno distrutto l'intera area. Come potete vedere anche ora sulla destra, i lavori stradali continuano ad aprire altre strade da percorrere verso gli insediamenti, per rendere più facile il raggiungimento di questi nella zona di Hebron. Tutta questa strada che stiamo percorrendo fa parte della Cisgiordania. Secondo la Quarta Convenzione di Ginevra, la costruzione di insediamenti è considerata illegale, ma naturalmente nessuno ha impedito al governo israeliano di costruire. Ci sono delle condizioni per le persone che vengono ad abitare qui. In alcuni casi il governo israeliano dà loro dei soldi per trasferirsi e costruire la propria casa. Sulla destra un altro insediamento chiamato Aleazar Lazarus, costruito negli ultimi 10 anni, con un museo all'interno. Un tempo c'erano gli arabi che sono stati costretti ad abbandonare quella terra. Per dimostrare invece l'appartenenza storica della presenza israeliana, hanno sradicato e poi impiantato tutti gli ulivi di questo posto, lungo le nuove strade costruite. Anche ulivi di circa 2000 anni, per dimostrare che sono lì da molto tempo. Un altro insediamento che corre sia a destra sia a sinistra si chiama Gush Etzion. In passato, ogni volta che noi palestinesi in Cisgiordania dovevamo ottenere il permesso per entrare a Gerusalemme, venivamo in questo insediamento sulla destra. Recentemente si sono spostati, credo, a Ezaria, Betania e Calandia, l'area prima della città di Ramallah. Quindi dobbiamo andare lì e richiedere il permesso, con una carta magnetica che mostra se ci sono problemi di sicurezza o meno, o problemi per cui non poter richiedere il permesso. In ogni caso, devi motivare la ragione per cui vuoi andare a Gerusalemme. In questo punto c'è un posto di blocco dove di solito fermano le auto quando vogliono controllare. Quando ci sono incidenti, bloccano quest'area e perquisiscono le auto. Sulla sinistra c'è un villaggio chiamato Beit Fajar, un villaggio palestinese noto per le pietre. Molti villaggi nella zona di Hebron lavorano e producono pietre per costruire case. Questa strada è stata aperta e resa più grande solo di recente. Negli ultimi mesi hanno allargato la strada per consentire nuovamente ai coloni e alle persone di percorrerla. Di fronte a noi vedremo un terreno con un edificio. Era una delle nuove chiese ed è stato venduto agli ebrei religiosi che ora lo stanno trasformando in qualcosa di simile a un tempio. E sulla sinistra abbiamo il campo profughi Al-Arub, con torri militari israeliane di fronte. A volte entrano, arrestano le persone, demoliscono le case, demoliscono il campo quando vogliono. Per lo più la mattina presto, quando la gente dorme. Ora ci immettiamo sulla strada nuova. I cambiamenti che stanno avvenendo sul territorio dal punto di vista geografico mirano a rimuovere o cancellare la nostra storia e i nostri ricordi, che sono legati alla nostra patria. Da sempre cercano di cambiare le nostre strade, i nostri terreni. Con i nostri festival cerchiamo di concentrarci sulla storia parlata, sulla cultura e di preservare anche la nostra tradizione, che sia anche l'agricoltura o il patrimonio culturale. La maggior parte dei pini che si vedono intorno agli insediamenti non fanno parte del patrimonio di questa terra. Un tempo si piantavano alberi da frutta e ulivi. Ci sono pini per cambiare la demografia della terra. Sulla destra c'è un altro villaggio palestinese chiamato Halul. La zona di Hebron è nota per la produzione di vetro e pietre, anche per gli alberi da frutto e i vigneti. Come tutti sanno, Hebron ha 3 spazi per 3 religioni, cristiani, musulmani ed ebrei. La moschea di Abraham è stata divisa dopo il 1993, quando Goldstein andò alla moschea e sparò alla gente all'interno. Quindi una parte molto grande della moschea è stata occupata dagli israeliani, dove hanno costruito accanto un tempio e naturalmente un insediamento all'interno della città vecchia di Hebron. Qui ci sono molte fabbriche, una fabbrica di chip per computer, anche di CD, di scarpe, di tutti i tipi di prodotti. Ed è noto che i cittadini di Hebron negli ultimi 20-30 anni sono andati in Cina e hanno portato qui i prodotti cinesi. Molti di loro hanno famiglie in Cina, dove hanno deciso di trasferirsi definitivamente. Ecco l'ingresso della città. Ovviamente questa parte è la parte nuova. Noi scendiamo verso la città vecchia, dove molti di loro che vivevano all'interno di essa si sono trasferiti a causa dei ripetuti scontri con i coloni e l'esercito israeliano. Se guardate, c'è una jeep militare israeliana sulla sinistra. e naturalmente c'è una torre poco più in là. Come si legge sul cartello rosso, gli israeliani non hanno il permesso di entrare in questa zona, perché è un'area palestinese. Loro mettono in guardia le persone dal recarsi a Hebron. Alle 18 il festival comincia ufficialmente con lo storytelling di Shelly Shalaby, di Azazin Nebruzon, in Amro Hall, nella vecchia città di Hebron. Sotto questo sottopassaggio ci raduniamo tra volti conosciuti. Abbiamo il piacere di conoscere lo staff del festival, composto da giovani ragazzi e ragazze. Ci sono molti videomaker, fotografi e fotografe. Donne del posto che si siedono sulle sedie bianche che non bastano per tutti e tutte. Ci meraviglia il numero di bambini e bambine che si accalcano e si posizionano tra di noi. Chi è appoggiato al muro, chi seduto sul bordo del marciapiede, con gli occhi curiosi di capire e sentirsi coinvolti in qualcosa di nuovo. Alle 18.30 ci spostiamo di poco verso Akava Neighborhood. Portiamo con noi un bel po' di sedie. Per aiutare lo staff le sistemiamo cercando di gestire anche la presenza euforica dei bambini. Dopo qualche minuto che tutti e tutti hanno preso possesso del proprio posto, The Almond Flower di Sua Arabi comincia. Come tutte le altre performance, anche questa si basa su una storia di vita. È la storia di Ferial Abu Hajjal, del quartiere di Tal Rumaida, nella città vecchia di Hebron. Qui è dove tutti i suoi incidenti e le sue sfide politiche e personali succedono. Torniamo verso le 20 all'Angels Hotel. Ceniamo con gli organizzatori e gli artisti. Intervistiamo su Arabi, che ci racconta di provenire da un paese di nome Al-Masha. È un'attrice diplomata in recitazione nel college arabo di Haifa. Ha lavorato in differenti produzioni teatrali, in differenti teatri della Palestina, più volte nel teatro di prosa. Mattina, in Halara Theater, andiamo con Nicola nel luogo in cui tagliano i mattoni. Nicola ci indica il muro che ci divide da Israele, sul quale ci sono murales di numerosi artisti. Ci dicono che per i mattoni ci vuole un po' di tempo, così Nicola ci porta a fare un pranzo veloce in un luogo vicino. Ci mostra una struttura enorme a forma di chiave, simbolo del diritto al ritorno dopo il 1948. Otteniamo i mattoni e li portiamo nella sala prove. Nicola Zreine è un artista di teatro, cofondatore della Lara Theater nel 2005, supervisore artistico di tutte le produzioni che hanno luogo per il Bethlehem Site Specific Festival. Ci racconta che è stato d'aiuto ai giovani artisti. Hanno lavorato insieme e seguito, con l'altra supervisione artistica svedese, la trasposizione della storia raccolta in una drammaturgia. Sviluppare copioni, integrare gli appunti, vedere le prove. Ha dato una mano per quanto egli potesse. Rispetto alla prima edizione, Nicola ci dice che hanno scelto lavori più specifici. Con l'apertura a Hebron, il festival si apre ad una nuova esperienza, con chi partecipa artisticamente, ma soprattutto con il pubblico e la sua reazione agli spettacoli che avranno luogo nella città vecchia. Una città più conservatrice rispetto a Beit Jala e Betlemme. Artisticamente il festival ha visto uno sviluppo delle performance, è molto migliorato. Pertanto è speciale e nuovo essere ad Hebron, vedere luoghi e persone nuove che non si incontrano in determinate zone se non per un'attività, a causa di problemi politici con i coloni nella vecchia città. Noi vogliamo che loro ci siano per dimostrare prima a se stessi e poi a tutti che questa è la loro terra, dove ci sono le loro case, le loro piazze. È molto importante, questo è un obiettivo del festival. Credo nell'importanza di questo tipo di arte, a livello locale e a livello internazionale. Invitiamo sempre le persone a vedere con i propri occhi, ascoltare con le proprie orecchie, perché è molto diverso da quello che si vede, da quello che si dice. I media sono controllati dagli Stati Uniti e dall'Europa, che vogliono vedere ciò che vogliono. È importante che ci sia una compagnia teatrale che viene dalla Palestina, ovunque essa vada. è già un messaggio esserci anche prima di esibirci o di aprire una discussione. È un buon messaggio che l'Italia ci veda come esseri umani normali. Mi è capitato di lavorare a Milano e in realtà non so quale sia l'immagine che alcuni italiani abbiano di noi palestinesi. Per esempio, non sanno che abbiamo bar, ristoranti, che facciamo feste, che abbiamo una vita. Non diciamo che siamo dei supereroi, perché siamo esseri umani. Viviamo la vita da palestinesi. Avere l'energia per andare a superare i posti di blocco e un'ottima energia per esibirci per e con i bambini. Sì, questa è una sfida per noi qui in Palestina. Ma lo facciamo perché amiamo farlo. Verso le 18 comincia la prima performance a Beit Jala, in Osh Baram, di Diana Swedi, con Even Door Is Open. All'aperto si apre la prima scena. C'è Amne, una donna anziana, interpretata da una giovane performer palestinese, che si rivolge a suo figlio martire. La seconda performance non dista molto da dove siamo, precisamente in Calille Arch. La replica di The Assassin Neighborhood Song. La terza performance è alle 19, in Osh Musle di Adel Khatib. Equivalent, le vite di due donne che non si sono mai incontrate, ma che hanno condiviso molti legami simili e diversi allo stesso tempo, per resistere a tutti coloro che le hanno aggredite. The Freedom Fabric di una giovane regista, Sham Youssef. La storia di Ferial Abu Haikal, la donna di Tal Rumaida, che continua instancabilmente a confrontarsi con l'occupazione e decide di negare l'accaduto. Il senza nome sembra esortarla a confrontarsi con la realtà, tessendo orizzonti di bellezza e libertà. Hi, my name is Sham. Ciao, mi chiamo Sham, ho 23 anni e vengo da Nazareth. Ho studiato teatro a Haifa e alla scuola araba per 3 anni. Questa è la mia prima esperienza alla regia. Principalmente sono un'attrice e credo che continuerò ad esserlo, ma al momento mi sto anche avvicinando al mondo della regia. Ho partecipato a un workshop con la Lara Theater, dove mi hanno selezionata per dirigere uno spettacolo di 20 minuti. Ho scelto di raccontare la storia di una persona che ha affrontato enormi difficoltà nella vita, come la perdita della figlia. Dopo aver presentato il progetto, è stato accettato e ho iniziato a lavorare allo spettacolo. È stato un vero e proprio processo di ricerca, in cui ho cercato di definire la struttura drammaturgica e il conflitto centrale della storia. Insieme ai miei amici abbiamo deciso di concentrarci sulla negazione del dolore passato. Un tema perfetto per lo spettacolo. La protagonista avrebbe negato la morte della figlia. Poi abbiamo sentito la necessità di introdurre un altro personaggio, che dovesse convincerla ad accettare la realtà della perdita e ad abbandonare la negazione. Per me è stato particolarmente interessante scegliere una ballerina invece di un attore, perché la danza, come la recitazione, ha un linguaggio proprio. Era fondamentale vedere come l'attrice e la ballerina potessero lavorare insieme, cercando di capire come costruire uno spettacolo che fosse visivamente coinvolgente ed emotivamente in grado di creare empatia con i personaggi. Penso che i ricordi di sua figlia siano ora nel mio spettacolo. I ricordi sono la prova che qualcuno è stato qui. Se neghi il tuo passato, significa che neghi la tua intera esistenza. In questo spettacolo c'è una sorta di loop. Infatti, la protagonista continua a tornare a chiamare sua figlia. Un loop che la ballerina cerca di rompere, perché se il loop non viene rotto, la protagonista perderà la sua esistenza. Quindi per me era importante mostrare una donna che ha attraversato tante cose, ha combattuto l'occupazione, il razzismo, ma la cosa che le ha fatto più male è stata la perdita di sua figlia. Ho voluto mostrare questa parte, la parte più umana di lei.